spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E oggi andremo a Genova. Innanzitutto buona giornata a tutti voi che ci ascoltate da ogni parte d'Italia. Andremo a Genova per parlare di bullismo omofobico. C'è un ennesimo episodio a Genova particolarmente grave. Un uomo di 40 anni aggredito e ridotto in fin di vita perché scambiato per un gay. E ci sono delle leggi che si dimostrano efficaci all'estero per contrastare l'omofobia, ma come viene affrontata questa problematica invece in Italia? A che punto siamo? Perché sembra che peggio di noi ci siano solo le repubbliche ex sovietiche. Al primo posto, dal punto di vista della tutela in generale delle vittime di abusi e di discriminazioni in Italia, in Europa, è arrivata Malta, proprio così, perché perfino Malta da marzo ha una legislazione specifica. C'è una questione sulla tutela della libertà d'espressione che è stata sollevata solo in Italia, quando però ci sono politici che si esprimono in una maniera molto violenta in tutti i luoghi pubblici, dicendo: io non conosco la parola gay, li chiamo in un altro modo, sono dei malati, degli sbullonati. È chiaro poi che si diffonda anche una cultura per cui aizzare un gruppo, un branco contro una persona sola e pestarla solo perché è ritenuta appartenere a una minoranza di qualunque tipo non sia visto nemmeno tanto di negativamente. Questa è un po' la situazione fotografata da quanto succede in Italia. Noi vorremmo capire però cosa si sta facendo, in che direzione sta andando l'Italia su queste problematiche. Oggi ci sono diversi articoli, naturalmente si scopre questo crimine d'odio, ma ci si chiede perché si continua a essere così permissivi, perché c'è questo ottimismo che sta alla base di alcuni atteggiamenti per cui, insomma, caso per caso le cose poi si risolvono da sé. E ogni giorno finisce in prima pagina qualcuno che invece della risoluzione ha trovato pugni, in questo caso addirittura catene. Ma ne parleremo dopo le 9. Prima affronteremo la questione incredibile di un altro primato tutto italiano, meno esplorato, meno discusso, e riguarda il consumo degli psicofarmaci senza prescrizione medica tra i giovanissimi. Riflettori puntati in questi giorni su cocaina e droghe, quando in realtà un numero mostruoso di ragazzini in Italia utilizza questi psicofarmaci fuori dal controllo medico, e i sonniferi sono i medicinali più consumati in maniera illecita, e addirittura a utilizzarli nella fascia d'età tra i 15 e i 19 anni sono più le femmine che i maschi. Lo scopo? Un po' calmarsi, un po' vincere gli stati d'ansia, un po' la depressione latente e in alcuni casi semplicemente sballare, andare fuori di testa. Questo lo segnala una ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, e l'approfondiremo. Soprattutto vogliamo capire insieme se è possibile intraprendere un percorso di dismissione degli psicofarmaci. È un percorso naturalmente che si attua su un paziente, ma anche sulla sua famiglia, sul contesto ambientale in cui una famiglia è inserita. Ma potrebbe essere un aspetto innovativo quello di questo modello. Avremo tra gli ospiti la professoressa Vincenza Palmieri, che è presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare e che ha applicato questo progetto dal 2004 in diverse realtà, e ci spiegherà quali sono e perché i benefici sui pazienti che riescono finalmente a dire no alla pasticca giornaliera, soprattutto anziani e ragazzi che vengono colpiti in maniera in maniera consistente da questa diffusione dello psicofarmaco un po' dato con leggerezza, e altre volte ce lo si procura invece semplicemente da soli o con farmacie online, perché all'estero spesso non è vietata la vendita, o con dei circoli informali, vale a dire amici, genitori, parenti a cui è stato prescritto. Noi però oggi andiamo ancora una volta a incontrare chi ci osserva da fuori e ci spostiamo, lo vedremo tra pochissimo. Visti da fuori. Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Hola, Joan. Buongiorno, buenos días. Abbiamo fatto questo regalo a Joan Solés, corrispondente in Italia per Cadena Ser. Praticamente una radio che fa parte del gruppo Prisa Radio El País. Ma prima spiegaci perché questa canzone è importante per tutti gli spagnoli, cosa dice, quando è stata creata. E questa canzone di Cecilia, già è sparita, una ragazza che ha scritto questa canzone negli ultimi anni della dittatura di Franco, e questa canzone è stata vietata. Dopo, con la democrazia, ha avuto un grandissimo successo, no? Abbiamo ascoltato come Cecilia canta la mia amata Spagna, questa Spagna mia, questa Spagna nostra, che dorme, che ora svegliano i poeti. E si chiede: dove sono i tuoi occhi, Spagna? Dove sono le tue mani? Dov'è la tua testa? E 40 anni dopo la dittatura, anche oggi, con tanti problemi nella nostra democrazia, tanti spagnoli si domandano: Spagna, dov'è ancora la tua testa? Facciamo una cosa allora: tracciamo la carta d'identità del tuo paese. Per telefonare in Spagna bisogna digitare 0034, questo è fondamentale. Fondamentale da sapere. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto di Statistica, si dice così? Sì, esattamente. Quanti sono gli abitanti della Spagna? Noi siamo 45 milioni di spagnoli, dopo che negli ultimi due anni praticamente hanno partito dalla Spagna intorno a 2 milioni di immigranti che lavoravano da tempo nel nostro paese. E questo è dovuto alla crisi? Sì, sì, certamente è dovuto alla crisi economica. Tanti immigrati hanno deciso di prendere tutti i soldi che avevano risparmiato e ritornare ai suoi paesi. Stiamo parlando principalmente dei cittadini latinoamericani, perché in questo momento c'è una crescita molto forte in tutto il Latino America. Noi sappiamo che migliaia di immigrati cercano ogni anno di entrare anche illegalmente nell'Unione Europea attraverso la Spagna, e ha colpito moltissimo la vicenda del migrante di 27 anni che aveva tentato di entrare in Europa via Spagna chiuso in una valigia. Il fratello... Ci sono tantissimi episodi drammatici di migranti che cercano di entrare in Europa, non solo in Spagna, ma l'Italia è un esempio della gravità della situazione, ma anche l'Italia è un esempio di tantissima solidarietà degli italiani verso gli immigrati. Soprattutto, e lo raccontano alcune lettere che poi sono diventate articoli, ce le ha segnalato anche un ascoltatore sulla nostra pagina Facebook, articoli purtroppo non tradotti in italiano, stiamo cercando di tradurlo in questi giorni grazie all'aiuto degli ascoltatori, di persone che arrivate a destinazione nei paesi del nord Europa ringraziano la solidarietà italiana che hanno ricevuto soprattutto in Sicilia e soprattutto a Lampedusa. Tu ti sei occupato nelle tue cronache, che tra l'altro non vengono trasmesse solo in Spagna, cioè tu parli dell'Italia e come tu la ritrai, questi tuoi schizzi, diciamoli, sì, chiamiamoli così, arrivano anche in America Latina. In quale nazioni? No, io lavoro fondamentalmente per la Spagna, ma il gruppo giornalistico radiofonico ha delle emittenti dagli Stati Uniti fino all'Argentina, praticamente tutta l'America, e allora molte di queste croniche si trasmettono anche in America, no? E racconti l'Italia, ti sei occupato del problema dell'immigrazione, moltissimi pezzi poi sono stati sui punti di contatto tra Italia e Spagna. Quello che proprio ti ha colpito è come funziona la scuola, anzi le scuole, perché tu hai parlato proprio degli edifici. Sì, Irene, guarda, innanzitutto permettemi di scusarmi, no, perché il mio italiano non è precisamente il tuo accademico. Italiano è perfetto. È un italiano spagnolizzato, guarda, ma ci capiremo, ma non è accademico e mi scuso per questo, no? Io prima di arrivare in Italia conoscevo l'Italia, la bella Italia, quando ho iniziato a lavorare qui, ma veramente è stata una sorpresa scoprire tante cose, per esempio la situazione delle scuole, come stai dicendo, no? Ma tante altre cose, come molti politici fanno un business della politica, come molti politici hanno delle pensioni di 10.000, 20.000 e anche 30.000 euro. In Spagna le pensioni sono limitate a 2.500 euro. È stata una sorpresa scoprire che i piccoli furti si intendono normali, soprattutto agli stranieri e turisti. Perché tutti lo fanno, dicono, no? Non scatenano allarme sociale, intendi? Esattamente. In un paese dove si può mentire, e anche si sono dei grandi bugiardi, solo perché è un peccato veniale. Non so, è stata una sorpresa che tanti uomini uccidono tante donne. È una cosa drammatica, non riesco a capire la testa di un uomo che uccide una donna. Ma anche tante violenze di una minoranza di italiani, come la violenza familiare contro sconosciuti e conosciuti, contro immigrati a volte, contro zingari, contro mendicanti, contro prostitute. E questo mi ha colpito moltissimo, la violenza contro coloro che sono sessualmente diversi. La violenza esiste in tutto il mondo, da sempre. Ma continua a stupirmi, tanti anni dopo, l'alto livello di violenza di un'Italia che il mondo considera, capisce che è un'Italia civile, ragionevole, amichevole. Questo mi ha colpito moltissimo. E chiaramente di questo hai riempito anche le tue corrispondenze. La violenza esiste in tutto il mondo, come giustamente dici tu, ma a livello istituzionale, anche legislativo, viene sanzionata. Qui c'è una sorta di, c'è una patente di permissivismo di la SFS. Non credo che la magistratura italiana e anche la polizia siano così condescendenti, no? Non credo che sia questo il problema. L'altro problema è che un livello così alto di violenza è praticamente impossibile di fermare da parte della magistratura, da parte della polizia, se non c'è una coscienza degli italiani della gravità dei fatti. Una consapevolezza, no? È chiaro. Esatto, ma poi quando, e questa è la parola. Quando invece vengono sdoganati a livello politico, a livello di parlamentari che si esprimono in un certo modo e considerandoli, certo, come dici tu, peccati veniali, è un cattivo esempio. E di conseguenza poi nella società civile normalmente un po' si guarda in alto per capire a quali azioni ispirarsi. Ora, tornando alla scuola, tu hai segnalato nei tuoi pezzi la differenza su come sono tenute le scuole, proprio nel senso di edifici in Spagna, e sugli stipendi degli insegnanti. Raccontaci brevemente quali sono. Gli stipendi degli insegnanti sono abbastanza migliori in Spagna che in Italia. In Spagna un professore prende normalmente intorno a 2.200-2.500 euro, che questo è quasi il doppio dello stipendio di un professore in Italia, no? Devo dire che i professori in Italia, almeno quelli che ho conosciuto, mi sembrano molto bravi. Un'altra cosa è la infrastruttura delle scuole, e questa è un'altra cosa assolutamente drammatica, perché ci sono scuole che sembrano delle caserne. In Spagna c'è stato da tanti anni un sforzo molto importante per il rinnovo delle scuole in generale. In Italia io vedo le scuole molto vecchie, la infrastruttura, non i professori ripeto mi sembrano bravi, no? Ma anche il primo ministro Matteo Renzi ha deciso di cercare un miglioramento della scuola in Italia, e questa decisione può essere anche discussa, controversa, polemica, uno può essere d'accordo con quello che fa o no, ma in qual caso non voglio entrare nel merito di quello che sta facendo Matteo Renzi, ma dico solo che il governo italiano sembra che ha preso coscienza della centralità, dell'urgenza di migliorare la scuola pubblica. È un aspetto che colpisce moltissimi dei corrispondenti che arrivano da fuori. Ci sono poi delle differenze anche a livello di burocrazia tra Italia e Spagna. Proprio ieri ci occupavamo dei fondi europei, quelli che l'Italia non riesce a spendere, che dobbiamo restituire al mittente, che non riusciamo a utilizzare nonostante il bisogno che ci sia. E tra gli esempi, i modelli, i paesi a cui guardare come efficienza della gestione e dell'utilizzo di questi fondi era indicata proprio la Spagna insieme alla Polonia. Cos'è che rende la Spagna più agile, più efficace anche in questo, su questo problema? Guarda, qui è molto importante il passaggio della dittatura 35 anni fa alla democrazia. Quando c'è stato questo passaggio, questa transizione, c'è stato un rinnovamento della Spagna, c'è stato anche la voglia di fare bene tantissime cose, altre l'abbiamo fatto malissimo, ma per esempio la riorganizzazione dell'amministrazione pubblica era qualcosa fondamentale, e abbiamo riuscito a fare un'amministrazione pubblica abbastanza efficiente, poco burocratica, sicuramente manca anche un po' più di controllo giudiziario per quanto riguarda la corruzione, ma sono casi isolati quelli visto della corruzione che... in Spagna, ma la cosa più importante è che si è cercato per 30 anni e ci abbiamo più o meno riuscito, si è cercato la maggiore efficienza possibile dell'amministrazione pubblica. Visto che abbiamo fatto questo confronto in cui tu naturalmente segnali ciò che vedi non funzionare in Italia perché è il tuo lavoro, vuoi dirci se ti piace vivere in Italia, che tipo di rapporto esiste tra italiani e spagnoli? Perché ci sono alcuni dei nostri ascoltatori che si offendono moltissimo quando sentono parlare i corrispondenti. Sì, lo capisco, no? Gli italiani a volte non accettano la critica, ma guarda, come corrispondente in Italia, dopo aver lavorato come corrispondente in Centro Europa e in Medio Oriente, oggi ho il privilegio di dare tante notizie dell'Italia su eventi importanti, sul governo, sul Parlamento, anche sull'altro Stato, il Vaticano, il Papa, anche dei disastri naturali, inondazioni, terremoti, la grande crociera affondata nel Giglio, ma rimane innegabile di mafia, di corruzione. Ma quello che ti volevo dire è che anche tantissimi giornalisti in 10 secondi veramente, Joan, sì, raccontiamo la bella Italia, la sua vitalità, la sua città di cultura, dell'arte, del cinema, della musica, dell'archeologia, della gastronomia, tante cose belle che affascinano gli spagnoli, ma affascinano anche in tutto il mondo. Grazie. Perché c'è una piccola Italia brutta, ma c'è una grandissima Italia anche. Grazie a Joan Solaes, corrispondente in Italia per Cadena Ser. Visti da fuori ritorna domani mattina. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. 8.35, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Sono moltissimi gli SMS risentiti quando trasmettiamo le interviste con i corrispondenti stranieri, risentiti perché ci si sente punti sul vivo, insomma l'Italia è un paese che è possibile criticare ma solo da dentro, solo chi ci vive può farlo, perché altrimenti scattano SMS del tipo: dove vive questo corrispondente? corrispondente, vive a Roma tra l'altro da 15 anni, che pensa che i professori italiani sono bravi, così ci ha scritto, perché dobbiamo prendere lezioni morali dagli altri. Ora, il confronto naturalmente non è per prendere lezioni morali, ma può aiutare anche a comprendere, visto che la reputazione è un bene sì intangibile, ma che pesa tantissimo sui rapporti internazionali, per capire dove si potrebbe in qualche modo intervenire o concentrarsi un po' di più. Sono voci sempre molto civili, tra l'altro, voci che non hanno alcun tono di saccenza o volontà di insegnare a vivere agli italiani, eppure vengono prese spesso dai nostri ascoltatori come delle critiche non infondate, perché nessuno dice che quello che viene raccontato non abbia la sua ragion d'essere o il suo fondo di verità, ma non si accetta che a parlare così sia uno straniero, e anche questo è un po' indicativo del clima che gira. 349, continuate a farlo comunque, a spedirci sms, perché sono importanti. 349 238 6666, e ci interessa la vostra opinione, ci interessa soprattutto il confronto. Noi cambiamo pagina proprio qui a Spunti di Vista per affrontare un tema che riguarda l'abuso di psicofarmaci. A volte ce li si procura online, a volte ce li si procura in un mercato illecito, comunque sono diffusissimi e tra gli adolescenti e tra i ragazzini cosiddetti del nostro paese e tra gli anziani, un'altra fascia debole a cui vengono somministrati con grande leggerezza. Ringrazio e saluto Silvio Garattini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Silvio Garattini, lo conoscete, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, e per tanti anni ha indicato qual era la strada da percorrere, soprattutto i correttivi da portare alla nostra legislazione in tema farmacologico. Quando parliamo di psicofarmaci, c'è un problema in Italia? Siamo in linea con gli altri paesi? Beh, l'abuso, diciamo, non è soltanto italiano, bisogna dire che la diffusione degli psicofarmaci è un po' in tutti i paesi. Il problema è che molto spesso si tratta di un uso inappropriato, perché gli psicofarmaci possono essere molto utili in alcuni tipi di malattie, ma spesso si tende ad abusarne e a utilizzarne in grandi quantità. C'è una tendenza, per esempio anche in campo pediatrico, quando parliamo di pediatria parliamo di ragazzi, di bambini, ma parliamo anche di adolescenti. Bisogna stare molto attenti, perché il cervello dei giovani è un cervello in via di sviluppo, e quindi questi farmaci, queste sostanze chimiche che agiscono sui vari mediatori chimici cerebrali possono interferire con lo sviluppo e possono dare delle modifiche che poi si vedono magari molto lontano nel tempo. Un settore in cui c'è stato e c'è ancora, credo, in Italia molto abuso è quello di alcune situazioni giovanili che vengono definite con il termine di ADHD, cioè un deficit di attenzione e una forma di iperattività. Questi bambini, questi ragazzi, vengono di solito trattati con degli psicofarmaci, e in particolare con il metilfenidato, che è un farmaco, che è uno psicofarmaco. Basta avere un po' di attenzione, e cioè un'attenzione da parte dei genitori e magari degli interventi di tipo psicologico, per evitare l'impiego di questi farmaci. Le do un esempio. In Lombardia, dove all'Istituto Mario Negri teniamo un registro degli ragazzi che hanno questa forma, abbiamo constatato che attraverso una attenzione nei confronti di questi ragazzi il trattamento con questo farmaco avviene soltanto in una piccolissima percentuale. circa 10 volte di meno di quanto avviene invece nella maggioranza delle regioni italiane. Quindi l'impiego degli psicofarmaci può essere molto spesso evitato anche nei giovani se si fa attenzione e se si utilizza un approccio che non sia necessariamente psichiatrizzante, possiamo usare questo brutto termine. Esatto, perché la tendenza è, appena c'è un problema, usare un farmaco. Invece ci sono molte cose che si possono fare prima e che possono evitare l'impiego dei farmaci. Intendiamoci, i farmaci sono importanti, però vanno utilizzati solo quando veramente servono. C'è una necessità. Lei ha citato l'attention deficit disorder, poi c'è nella versione, diciamo così, con iperattività, quando si aggiunge anche l'H. L'eccesso, l'abuso di somministrazione di farmaci in questi casi si incrocia anche con situazioni spesso di disagio socio-economico in cui, perché lei ha detto, se c'è un'attenzione ai genitori, ci sono realtà in cui i genitori non ci sono, in cui i ragazzi sono allontanati dai genitori e in cui si ricorre molto spesso a questa somministrazione. Vincenza Palmieri, dottoressa, direttore, tra l'altro, scientifico della collana Politiche Sociali e Dintorni, si è occupata di questo per tanti anni, è la presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare. Buongiorno, benvenuta dottoressa. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno professore. E riguardo alla diagnosi di attention deficit disorder, sembra che ogni anno in Italia sempre più bambini, ragazzi ne siano affetti. Come mai c'è questa crescita esponenziale? Sì, è vero, in effetti noi abbiamo una crescita delle diagnosi in Italia, non solo di ADHD, ma anche di disturbi specifici dell'apprendimento che spesso sono associati all'ADHD. In effetti abbiamo anche dal 2010 una legge nazionale, che è la legge 170, che in qualche modo ha sdoganato la possibilità che le scuole possano comunicare alle famiglie eventuali segnali di compromissione di performance, per cui la famiglia viene così invitata a rivolgersi presso le strutture sanitarie e nelle strutture sanitarie abbiamo assistito ormai dal 2010, questi sono i dati in nostro possesso rispetto a questo specifico argomento, un incremento di circa il 37% di anno in anno. Ci fa pensare che ogni anno, lei sta dicendo, si registra un aumento del 37% della diagnosi rispetto all'anno precedente. Questi sono i dati del MIUR fino al 2012. Negli ultimi anni. E secondo lei cosa indica questa crescita, proprio dal punto di vista percentuale, che non si spiega, immagino, con veramente una maggiore diffusione della malattia, come viene definita? Cosa indica questo continuo aumento nella diagnosi di attention deficit disorder? Allora, indica che la scuola ha meno strumenti, che la famiglia è disorientata e che la forza, sembra diciamo banale ripeterlo, ma la forza delle multinazionali e delle case farmaceutiche è sempre più presente, come in tutto il mondo, come a iniziare dall'America ad arrivare in Italia. Quindi è un sistema che in qualche modo si autoalimenta e che trova proprio in questo enorme bacino, che è quello dei bambini e degli adolescenti in modo particolare, diciamo, è proprio in questo ambito che l'interesse è più forte, perché parliamo di numeri molto alti. Sono numeri molto alti, anche se molto lontani da quella che è la realtà nordamericana, dove veramente in ogni classe, negli Stati Uniti e in Canada, a un certo punto venivano diagnosticati 4-5 casi di ADHD, cioè Attention Deficit Disorder, con l'aggravante dell'iperattività, proprio perché i professori erano spinti a diagnosticarlo e senza strumenti dal punto di vista accademico a volte incorrevano in errori, non tanto e non solo per le pressioni che senza dubbio ci saranno state a livello culturale o sui medici delle case farmaceutiche, ma proprio per una buona fede. C'è anche questa mentalità, questa cultura, questa fiducia eccessiva di un'opinione pubblica, negli Stati Uniti almeno e in Canada, che per decenni è stata critica, sulla pastiglia, il farmaco che può risolvere tutto. In Italia, c'è da dire, fino a questo punto c'è stata una maggiore attenzione, Silvio Garattini. Sì, anche se le mode arrivano dappertutto, come diceva giustamente la professoressa, purtroppo il farmaco è diventato un mercato, è considerato una specie di bene di consumo come tanti altri, anziché essere considerato uno strumento di salute. Se noi lo consideriamo uno strumento di salute, lo utilizziamo soltanto in modo appropriato quando c'è veramente ha ragion veduta. La fermo un attimo, professore, perché è arrivato il momento di controllare la situazione del traffico e poi torniamo. Il numero di telefono 800 24 00 24. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Pronto, buongiorno, diamo la parola agli ascoltatori che ci hanno chiamato in questo momento dalla provincia di Trapani. Pronto? Pronto, buongiorno. Come si chiama? Sono Egle da Trapani. Egle, bellissimo nome, dica Egle. Grazie tante. Volevo dire questo, i ragazzi sono diventati consumatori di psicofarmaci, non ce ne dobbiamo meravigliare più di tanto, perché conducono molti di loro un'esistenza impossibile, quasi infernale. Sono circondati da una società adulta che non fa altro che coniugare tutto, cioè il verbo avere in tutte le salse, addirittura il fenomeno atmosferico è piovuto, è diventato appiovuto, addirittura c'è il verbo avere anche in questo. In classe, allora, un motivo di sfogo, di solidarietà e di confronto lo si potrebbe trovare in classe. Non sempre, perché... Ma lei è un insegnante, Egle? Io sono un ex insegnante di inglese. Sì. E ho vissuto negli Stati Uniti, mi creda, quando sono venuta da lì, a Trapani, a lontanissimi anni 60, perché io sono una donna sera di 66 anni, sì. Io non lo so, io stavo impazzendo. Se ci fossero stati, mi scusi la voce per l'umidità, se ci fossero stati gli psicofarmaci allora, forse avrei fatto ricorso anch'io. Perché mi sono trovata in una Italia praticamente senza democrazia per i giovani, con rapporti interpersonali di un'antipatia del tipo lei non sa chi sono io, o mio padre è questo e tuo padre è nulla. Una fotografia tristissima. È una fotografia tristissima quella che lei scatta. Attenzione, perché non piace si faccia un confronto che deriva da un'esperienza che si è realizzata in altri stati. Non piace ai nostri ascoltatori, l'abbiamo appurato con la rubrica sui corrispondenti stranieri. Però, Egle, abbiamo colto il suo segnale. È una vita veramente difficile, ci dice Egle, veramente infernale, in cui i rapporti non sono certo permeati da rispetto, nel rispetto delle regole. Grazie, ex insegnante, la nostra ascoltatrice. Ora saluto e ringrazio Anna Rosa Racca. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Anna Rosa Racca è presidente di Federfarma, cioè la federazione nazionale che rappresenta le farmacie, le oltre 16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Allora, professoressa, qui si parla di cifre di abuso di prescrizioni. Voi dal vostro bancone, diciamo così, dal bancone dei vostri associati, notate questo crescente ricorso a psicofarmaci anche quando forse altre terapie potrebbero avere la stessa o maggiore efficacia? Come ha detto in maniera perfetta il professor Garattini, il farmaco è uno strumento di salute e non è uno strumento di mercato, quindi i farmaci devono essere usati quando servono, se servono, in maniera corretta. Il nostro impegno quotidiano è quello di dire alle persone di usarli in maniera corretta, seguendo la terapia che viene indicata dal medico specialista o dal medico di medicina generale. Questi farmaci si vendono in Italia su prescrizione, quindi sono tutti venduti quando c'è una ricetta medica, a volte ripetibile, cioè che dura più volte, o a volte addirittura non ripetibile. Lei all'inizio ha parlato giustamente di internet. Ecco, io una cosa che voglio dire a tutte le persone che ascoltano questa interessante trasmissione è quella di non comprare i farmaci in internet, perché si vuole sempre superare la prescrizione del medico e naturalmente il controllo del farmacista. Questi farmaci comprati in Italia per di più sono sempre falsi. 70% non contengono il farmaco contenuto, lo contengono in misura non contengono inferiore. Il farmaco che dichiarano di contenere, tra l'altro. Che dichiarano di contenere. Quindi assolutamente no. I farmaci devono essere usati quando servono, se servono, seguendo la terapia. Bisogna andare dal medico e poi in farmacia a ritirarli. Questo è fondamentale. Lo è però per tutti è vero farmaci. O no che all'estero, per esempio nel Regno Unito, le farmacie, la vendita dei farmaci su internet online è legale? Allora, in Italia noi quelle che si chiamano farmacie online non sono farmacie, ma sono siti, come le dico, diciamo non corretti, che vendono farmaci per di più falsi. Ci sarà una norma, c'è già una norma e sarà disponibile fra poco, in cui le vere farmacie, cioè tutta la rete straordinaria delle farmacie italiane, potranno vendere in internet farmaci senza ricetta, cioè quei farmaci che hanno il famoso bollino, quei farmaci diciamo... Quelli di da banco, utile. Possiamo definirli esatto. Così? Esatto, non so quanto questo sarà comunque utile, perché voi sapete benissimo che sono dei farmaci che costano molto poco e poi se uno ha il mal di testa, se dovrei prendere abbiamo subito capito. Il farmaco non può aspettare 24 ore che gli arrivi con la posta, dove spende due volte di più. Quindi in questo momento, diciamo, in Italia bisogna andare dal medico e poi andare in farmacia. E comunque si va online anche perché abbatte i costi, cioè è considerato anonimo, facile. I farmaci da banco costano una media di 4 euro. No, stiamo parlando euro. Dell'utilizzo di siti stranieri, naturalmente. Ah sì, certo, perché magari questi si utilizzano appunto, come dicevo, per superare il medico. Gli uomini ci naturalmente ordinano i propri farmaci per le prestazioni sessuali, noi donne per dimagrire. Quindi invece diciamo la salute è il bene più prezioso che abbiamo, andiamo dal medico di medicina generale e poi in farmacia a ritirarlo. Secondo una ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, gli adolescenti italiani sono in testa al consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica. Secondo lei dove li prendono? Li prendono assolutamente in internet, perché come le dico appunto questi farmaci sono tutti venduti con ricetta medica e questo c'è veramente un controllo molto importante su questo. Noi sa benissimo che le farmacie italiane danno al Ministero frequentemente i dati di tutte quelle che sono le vendite, quindi questi farmaci vengono dai giovani comprati assolutamente fuori dai canali legali. Grazie, ora diamo la voce anche a chi aspetta in linea di raccontare la propria esperienza velocemente, ed è molto importante l'eccesso di diagnosi, è un tema che stavamo affrontando e continueremo a affrontare con i nostri ospiti, di attention deficit disorder, causa naturalmente dei drammi nelle famiglie che spesso non sanno chi ascoltare. Buongiorno Romeo, pronto? Buongiorno, mi sente? Sì, dica. Sì. Ma niente, io anch'io ho questa impressione di questo eccesso di diagnosi, perché anche a me capita tra amici di trovare che hanno il bambino che ha questa malattia, che secondo me è semplicemente un bambino un po' vivace. Io racconto la mia storia, io ho 53 anni, ho due lauree, sono un professionista, guadagno 200.000 euro l'anno, io da piccolo avevo tutte le caratteristiche di questa malattia. Il maestro alle elementari mi ha legato alla sedia, simbolicamente, però mi ha legato perché non riuscivo a restare fermo. Però mi è successo una cosa molto semplice, che mio padre non ha denunciato il maestro, semplicemente quando sono tornato a casa mi sono preso due scappellotti da mio padre. Ah, ho capito il suo tipo di ricetta, quindi secondo lei... No, lo dico questo, però mi sembra che ci sia un eccesso di appunto di diagnosi, cioè il bambino che è un attimo fuori da uno standard è ammalato, ecco, sì, allora il bambino diventa ammalato, si comincia poi addirittura sento a prendere psicofarmaci. Grazie Romeo, e lei ha toccato una corda molto importante, questo preoccuparsi dei bambini senza necessariamente dar loro un'etichetta di malattia. Questo è uno dei temi fondamentali del poter vivere senza psicofarmaci, perché poi quando si inizia da bambini ci si porta dietro questo tipo di dipendenza per tutta la vita. Dottoressa Palmieri, ha sentito l'ascoltatore, è d'accordo? Assolutamente sì, perché si ha una tendenza negli ultimi decenni a scambiare i comportamenti con le malattie. Cioè a scambiare un comportamento non è una malattia, questo è il tema che approfondiremo subito dopo un'interruzione importante, perché sta arrivando il GR, ci scusiamo con quanti aspettano in linea all'800 24 00 24, questa è Spunti di Vista e stiamo parlando di psicofarmaci e Attention Deficit Disorder. Ora le news. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. 9:06, abbiamo lasciato in sospeso un argomento che interessa da vicino moltissime famiglie. Pensate che ogni anno in Italia c'è un aumento del 37%, in genere in ambienti scolastici, della diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento. Un ascoltatore ci raccontava come anche lui da piccolo fosse stato così indicato come un bambino iperattivo e la cura è stata, la situazione è stata risolta in famiglia, quantomeno, cioè, ha indicato e ha raccontato quello che il padre ha fatto per rimetterlo in linea. Ora lei, dottoressa Palmieri, al di là della tradizione che è stata illustrata dal nostro ascoltatore, ci sta indicando e ci stava dicendo, prima che la interrompessimo, che non sempre un comportamento corrisponde a una patologia. Quindi un ragazzo può sfondare una porta con un pugno un giorno perché la fidanzata l'ha lasciato e si sente particolarmente frustrato, questo non vuol dire che sia malato? Assolutamente, diciamo che noi abbiamo un range di comportamenti che un bambino o un adolescente possano tenere e questi vanno diciamo accolti, non possono essere immediatamente stigmatizzati come a volte accade. Le dicevo prima, i comportamenti non sono delle malattie, le difficoltà a scuola, le difficoltà di apprendimento non possono essere delle malattie, in virtù anche del cambiamento estremo dei programmi scolastici nella scuola italiana. I disagi economici o l'infelicità non possono essere trattati come delle malattie, sono piuttosto dei problemi e come tali, prima che si cronicizzino e non trovino nessuna possibilità di soluzione, devono appunto essere risolti con attività di rete, con un approccio multidisciplinare, con un intervento anche sulla famiglia, perché mi permetto di completare quello che è stato detto prima a proposito di dove i ragazzi trovano psicofarmaci. Dobbiamo ribadire quello che è stato rilevato anche nella ricerca del Censis, che i ragazzi per la prima volta trovano gli psicofarmaci negli armadietti dei genitori, nel cassetto della mamma. Voi avete anche creato un programma di dismissione dagli psicofarmaci, si chiama Vivere senza psicofarmaci, che segue proprio questo iter di sostegno della persona, della famiglia, del paziente. Perché c'è bisogno di un sostegno? Perché non si può semplicemente smettere da soli? Lo vogliamo spiegare? Per smettere da soli mai, questo va assolutamente sottolineato. C'è bisogno di un sostegno perché intanto c'è bisogno di intervenire sulla famiglia e supportare la famiglia nel accogliere una nuova modalità di gestire il sintomo, la difficoltà del familiare. E poi perché non si tratta solo di una mera dismissione del farmaco, questo sarebbe assolutamente più semplice rispetto invece a un progetto che vada a intervenire su tutte le aree della vita, anche su quell'area dove il problema può essere insorto la prima volta, quindi un problema anche di lavoro, economico, sentimentale, di relazioni familiari, si è iniziato perché si doveva fare una dieta, perché si doveva affrontare una performance sportiva, perché c'è stata ad esempio in alcuni casi grandi campagne pubblicitarie che hanno indotto l'uso dello psicofarmaco, per cui noi andiamo a intervenire in un progetto di rete che comprende sicuramente una dismissione indolore, quindi previo visita specialistica, insomma c'è un'equipe, c'è un team. Siete un'equipe di medici specializzati in diversi ambiti e parlate di svezzamento, sì, e di aiuto alla persona, quasi lo psicofarmaco, utilizzate lo stesso termine che si usa con il latte materno, svezzamento e aiuto alla persona. Ma chi è che si rivolge a voi? Chi è che vi chiede aiuto? Guardi, ormai sono decenni che noi facciamo questo lavoro, quindi nel corso degli anni noi abbiamo avuto il panorama completo della popolazione italiana, in modo particolare sono giovani, post-adolescenti, in età più adulta sono soprattutto donne e anche famiglie che si trovano con una proposta che è stata fatta verso i propri figli da altre strutture o da medici di base o da specialisti a cui si erano rivolti in precedenza. Abbiamo anche ragazzi che escono da strutture, quindi adolescenti che escono da case famiglia dove erano contenuti anche con psicofarmaci, non sappiamo prescritti da chi in questo caso. Sono state anche storie orribili che ci ha proposto la cronaca di una casa famiglia chiusa a Roma proprio quest'anno, in cui parallelamente appunto agli abusi venivano e sono stati denunciati non solo la somministrazione di psicofarmaci, la costrizione a mangiare cibo avariato, lesioni aggravate, però non è una situazione che possiamo allargare e definire generale. In questo caso specifico è avvenuto anche questo, però è vero che lo psicofarmaco e la prescrizione di attention deficit disorder spesso intercetta il disagio socio-economico, cioè è più facile verso quei ragazzi che non abbiano alle spalle famiglie che li sostengono, famiglie che possono permettersi, come dire, una second opinion, come viene chiamata in termini medici, che possono portarli a una visita con uno psicoterapeuta, per esempio, invece che la somministrazione di pastiglietta. Guardi, non esiste, nella nostra esperienza non esiste una grossa differenza di status sociale. Noi abbiamo ragazzi che vengono da un forte disagio economico, ma anche ragazzi che vengono da situazioni assolutamente contenute, quindi famiglie benestanti. Sicuramente c'è una tendenza a prescrizione di psicofarmaci o a abuso diagnostico nei confronti delle popolazioni con maggiore svantaggio. Guardi, il New York Times pubblicò alcuni anni fa una ricerca in base alla quale i bambini nella fascia dell'indigenza ricevevano prescrizioni di psicofarmaci 4 volte superiori ad altre fasce sociali. In Italia noi non abbiamo dati statistici, non abbiamo dei database completi per quanto riguarda i minori, non esistono, non abbiamo questo tipo di ricerca e la possibilità di accedere. Ci sono degli istituti prestigiosi come l'Istituto Mario Negri, ci sono altre ricerche del Census, ci sono dei dati dell'Istat che leggiamo occasionalmente, ma non abbiamo un database che riguarda un po' tutta l'area dei minori, dal disagio a, perché no, proprio altre condizioni di vita. Però lei dice sostanzialmente ci vuole un riconoscimento di alcune difficoltà dell'apprendimento che non tramutino il bambino, il ragazzo, in malato immediatamente. Sentiamo anche un ascoltatore. Pronto, buongiorno Daniele, dica. Sì, buongiorno Irene. Sì. Da dove chiama? Chiamo da Milano. Sì. E volevo dirti che sono un po' portavoce, penso, giro molto, quindi sento sempre Radio 24 e sento anche tanti amici che ascoltano la trasmissione. E volevo farti i complimenti perché sei bravissima. Grazie Daniele. Sì. Poi diciamo anche che sei mio fratello, perché sennò la gente non capisce. No, veniamo al punto, scherzi a parte, no, dai, grazie. No, io volevo dirti che sono intervenuto, mi sono intrappolato nella trasmissione proprio per dirti questo, perché Tante volte, anzi devo dire proprio perché la trasmissione al mattino sono sempre interessantissime, e devo farti i complimenti perché a differenza di tanti tuoi colleghi non sbagli mai un verbo, sei sempre precisa, sei molto brava. Io spero che tu abbia più spazio in Radio 24 perché ti credi che vada. Tutti lo dicono. Daniele, grazie. Solo per dirti questo perché penso che forse tanta stavi gente ascoltando. Vorrebbe dirtelo, ma magari non può dirtelo in diretta e voglio che lo sappiano tutti. Complimenti e continua così. Un abbraccio. Forse, Daniele, grazie. Forse hai ascoltato qualche altra radio, visto che mi segnalano sempre gli svarioni che tiro fuori anch'io. Pensavamo avesse una storia, un'esperienza da raccontare sul Attention Deficit Disorder, Daniele. Noi vorremmo sottolineare allora qualcuno che una situazione che invece ci viene proposta via SMS. La sottopongo a lei, professor Garattini, per concludere. Perché all'estero, quando hai bisogno di 8 pastiglie, ti vengono vendute 8 pastiglie e invece noi ci portiamo a casa tutte queste scatole di farmaci che poi scadono? Questo è un ascoltatore che non si firma, ma secondo me ha segnalato una cosa importante. Beh, fa parte dell'atteggiamento di cui parlava la professoressa Palmieri, cioè siamo diventati un mercato e quindi anche per i farmaci succede appunto che nonostante che tutti gli anni nelle leggi finanziarie o nelle leggi di stabilità si dica che bisognerà provvedere a fare in modo che le confezioni dei prodotti farmaceutici contengano il numero di unità di compresse o altro che siano adeguate al tipo di trattamento che si deve fare, nonostante questo continuiamo ad avere situazioni in cui se c'è bisogno di avere un antibiotico che richiede diciamo 12 somministrazioni per diciamo un trattamento così, sì. Le confezioni sono di 10, così se ne comprano 2 confezioni per avere i 12 le 12 pastiglie e il resto si butta via. Questo purtroppo è una situazione che non si riesce a cambiare nonostante che appunto sia evidente. Dovrebbe far parte della razionalità, dovrebbe far parte, creerebbe, indurrebbe anche indubbiamente dei risparmi, ma soprattutto eviterebbe di fare in modo che gli armadietti siano pieni di farmaci, certo. Con poi le conseguenze spesso appunto terribili che spesso segnaliamo, che prendono che il sonnifero della mamma. Che vanno a cercare quello che c'è di nell'ambito dell'armadietto farmaceutico. Si usa anche lo sciroppo per la tosse addirittura, certo. Lo sciroppo per la tosse per sballare, per la coideina che vi è contenuta. E speriamo che qualcuno si decida a razionalizzare le confezioni farmaceutiche. Ed è uno di quegli elementi che si potrebbe semplicemente così mutuare dal confronto con l'estero, visto che altrove c'è la prescrizione del medico, si va in farmacia, la farmacia prepara al momento il preparato, questo non so se vi è capitato mai di farlo negli Stati Uniti o in altre nazioni, certo bisogna aspettare 5 minuti, 10 minuti che sia pronta la propria ricetta, nel frattempo si può anche uscire dalla farmacia, andare a fare un giro, si ritorna dopo 10 minuti e se l'antibiotico è prescritto per 5 giorni, 2 volte al giorno si avranno 10 compresse e così via. Problema risolto e non ci sono armadietti con farmaci residui e soprattutto grandissimo risparmio per il sistema sanitario nazionale. Grazie per aver preso parte a questa discussione ai nostri ospiti, Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri che avete sentito e poi a Vincenza Palmieri, direttore scientifico della collana Politiche Sociali e di Intorni, nonché presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare. Grazie anche alla presidente di Federfarma che è stata con noi, Anna Rosa Racca. Tra poco parleremo di omofobia. I wanna see pom-poms from the stands. Come on, come on. My fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump. I know you're Forrest. I know you wouldn't hurt a beetle. E lui si chiama Frank Ocean, è importante perché è un cantante che con questa Forrest Gump parla semplicemente del suo modo d'essere, della sua esistenza di innamorato e omosessuale. Ora noi passiamo a parlare, a prendere in esame il fatto di Genova, ve l'abbiamo annunciato nel corso della trasmissione da questa mattina, perché ci piacerebbe capire cosa si può fare, cosa sarebbe davvero efficace in Italia per far sì che il bullismo omofobico cessasse. Forse è un orizzonte a cui tendere, però quantomeno venisse sanzionato e riconosciuto come problema. Pensate che gli epiteti dispregiativi degli omosessuali sono al primo posto tra gli insulti che i ragazzi si scambiano quando vogliono denigrarsi, quando vogliono attaccar briga. Si inizia sempre e spesso, questo è raccontato da molti che coi ragazzi lavorano, con un epiteto del tipo frocio o altri sinonimi di questo tipo. Cosa è successo a Genova in questo caso? Abbiamo innanzitutto una persona in fin di vita. Oggi il Secolo XIX a pagina 6 pubblica un autoscatto della vittima con i segni del pestaggio. Dà la parola alla fidanzata dell'uomo, era su un autobus, era stato scambiato per un omosessuale e in branco 6 persone l'hanno aggredito e colpito non solo con pugni ma addirittura con catene. Non ha denunciato subito perché è stato chiesto anche questo naturalmente alla ragazza che ha riportato la vicenda all'opinione pubblica, perché pensava di rimettersi e soprattutto non voleva rimanere indietro con il lavoro, voleva tornare a lavorare. E per alcuni giorni ci è anche riuscito. Dopo alcuni giorni il mal di testa si è aggravato sempre di più, aveva un dolore fortissimo alla testa, ripeteva sempre d'averlo finché è stato veramente male, al punto che Chiara, questa il nome della fidanzata, ha dovuto farlo ricoverare. Si trova in coma, i medici sono cauti, anche se sembra sia ripresa l'alimentazione. Luca ha poco più di 40 anni e naturalmente gli auguriamo di uscire quanto prima dalla prognosi riservata e anche dall'ospedale. Lo scenario, una Genova indifferente, alcuni hanno puntato il dito verso il conducente di autobus, lui ha detto: io che potevo fare, mio nonno mi ha insegnato, almeno questo riporto nei giornali, a farmi gli affari miei. Allora nessuno gli chiedeva certo di mettersi, come dire, a mettere a repentaglio la propria incolumità, ma se almeno avesse chiamato le forze dell'ordine, se almeno fosse intervenuto quando aveva visto il giovane a terra e coperto di sangue, probabilmente ne sarebbe uscito meglio lui e tutta la sua categoria, alla quale esprimiamo la massima solidarietà, perché anche sui tram, gli autobus nelle altre città italiane ci si chiede a volte come possano, visto le situazioni terribili che si verificano, provate ad andare in giro il sabato sera sui mezzi pubblici, come possano guidare sentendosi al sicuro questi conducenti. Ma al di là dell'incolumità personale c'è anche il dovere civico di fronte a una persona ferita e ferita per un'aggressione di, se non intervenire, quantomeno far intervenire coloro che qualcosa possono fare. Parliamo anche di legislazione, parliamo di questo humus culturale che sta alla base di questa aggressione, ma prima di tutto noi vogliamo dar la parola ai genitori dei ragazzi gay, delle ragazze lesbiche o transgender, e saluto e ringrazio per il suo tempo Ettore Ciano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori e a lei. Perché questi genitori vivono, e me lo confermi o mi smentisca se sbaglio, in una situazione particolare, cioè spesso di paura quando i loro figli vanno a scuola, vanno sui posti di lavoro, che tornino a casa incolumi, come dire. Ettore Ciano, ci racconti la sua esperienza e quello che sente raccontare dagli altri genitori? Ma io credo che sia doveroso presentarmi. Io sono Tresciano, responsabile legale della GEDO Roma. La GEDO è un'associazione di genitori, parenti e amici di persone omosessuali. Quindi questo episodio non è altro che l'ennesimo episodio che si verifica nella nostra nazione, tra l'altro con quello che ha messo bene in evidenza lei, cioè la indifferenza, direi quasi di un pubblico ufficiale. Lei un po' ha difeso la categoria dei guidatori degli autobus perché affrontano difficoltà oggettive. Cioè questo è innegabile, stiamo parlando in generale. In sì. generale non è facile oggi come oggi guidare in una situazione in cui spesso salgono persone ubriache, moleste, violente, che cercano. Quello è innegabile. Però di fronte a un'aggressione di questo genere, anche se non vuoi intervenire direttamente, metterti in mezzo, bloccare le catene, temi per il tuo setto nasale, tutto sì. comprensibile. Il telefonino in tasca però ce l'hai. Ce l'abbiamo. Sì, no, il problema è un altro. Fatti tuoi, ma fino a quando non vedi che ci sia una situazione di pericolo oggettivo per un tuo passeggero, tra l'altro, va bene? Per sì. esempio, basterebbe inserire una norma di legge che dicesse che è corresponsabile chi presta il servizio qualora si verifichi una violenza su un servizio pubblico. E no. Allora però anche i passeggeri dell'autobus, scusi Ciano, perché certo, quando quello che succede sugli autobus, sui tram, sulle sì, metropolitane, sì. Nelle grandi metropoli tutti i giorni noi siamo testimoni, è la totale indifferenza verso ogni tipo di anche atto vandalico. E, visto che tutti girano la testa dall'altra parte, nessuno affronta i facinorosi, perché deve essere proprio soltanto l'autista a dover fare l'eroe? In genere una nazione che si dice civile provvede a mettere delle norme legislative ben precise in cui le responsabilità vengono punite. Noi abbiamo la legge Mancino per una serie di violenze che non è applicata all'omosessualità in questo caso. E secondo me la legge serve appunto a dare la sicurezza ai propri cittadini. Noi genitori di persone omosessuali siamo, inizialmente almeno eravamo più terrorizzati di quello che poteva capitare ai nostri figli. Dopo abbiamo scoperto che già avevano subito, nella maggior parte dei nostri ragazzi, ci sono stati episodi di violenza che si sono fatti a scuola, che in genere però non hanno mai assunto situazioni, o almeno raramente assumono situazioni così gravi come in questo caso di un signore di 40 anni che ha preso un sacco di calci in testa evidentemente e ha subito lesioni che l'hanno portato in coma. E i nostri figli tornano a casa, non dicono esattamente come il signore che non ha voluto denunciare per evitare problemi sul lavoro, problemi peggiori, e i nostri figli non dicono che hanno subito aggressioni di bullismo omofobico. Per il semplice motivo che non avendo fatto coming out in famiglia, non avendolo detto già ai genitori, temono poi le conseguenze anche da parte dei genitori, insomma, conseguenze negative. E, però, ed è per questo che ci premeva occuparci di questo fatto. Beh, chiaramente perché le spiego, può fare molto, le spiego Ciano, pensando a quanti anche ragazzi giovanissimi stanno esitando, si stanno tormentando, perché prima di parlarne ai genitori passano in generale, certo non è una regola, anni prima di potersi aprire sì. con la mamma, col papà sì. e sentire che passa nell'indifferenza un'aggressione di questo tipo può spingere nell'ombra, a mimetizzarsi, nella paura di esprimere quello che semplicemente si è, ancora più persone, e quindi creare ancora più sofferenza. Non ce n'è alcuna ragione. È interessante che nella sua associazione di genitori di ragazzi gay, omosessuali e lesbiche vi siate scambiati tutta una serie di esperienze, tra l'altro raccontate in un documentario bellissimo, si chiama Due volte genitori, e esperienze in cui molti di voi per la prima volta si sono trovati ad avere a che fare, non avevate mai riflettuto sul fatto di poter avere un giorno un figlio, una figlia omosessuale, quindi per la prima volta, con ognuno col proprio patrimonio, corredo culturale di esperienze, vi siete trovati a guardare negli occhi i vostri figli. E cosa avete imparato da questo unirvi? Abbiamo imparato a guardare meglio la società che affronta una questione, perché di questione nazionale si tratta, in cui sono coinvolte migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, milioni di persone, si può vedere le statistiche. Abbiamo imparato a capire che fa questa società per i propri figli, Cioè io so che faccio per i miei figli, io, mia moglie, adesso so che cosa fanno gli altri genitori. Cioè quelli che ci riescono, riescono ad avvicinarsi, ad accettare il proprio figlio, a rispettarlo come persona e a essere in prima fila nella rivendicazione di diritti umani. Stiamo parlando di diritti ad essere sereno e sicuro nella propria nazione. Non stiamo parlando di Araba Fenice, stiamo parlando di qualcosa di concreto che la nostra classe politica, pagata con le tasse che io, mia moglie e tutti quanti versiamo, dovrebbe farsi carico. Io ascolto lei, l'ho ascoltata con estrema gioia, insomma, vedere che una persona del mondo dell'informazione abbia le idee così chiare su cosa bisogna fare. Potrei chiederlo io a lei che cosa bisogna fare adesso. Guardi, credo che il reato di omofobia sia la prima strada da percorrere, va introdotto, va approvato. E la prima proposta del reato di omofobia risale al 1992. Siamo qua nel 2015, 17-20 anni, con nazioni che vanno avanti, a noi riescono a dare diritti tipo il matrimonio, eccetera. Non vogliamo scendere in questo tipo, ma la sicurezza la dobbiamo garantire. La sicurezza viene ancora prima. Poi la mia, come dice lei, viene semplicemente da un'osservazione pragmatica, perché anch'io come lei non mi ero mai trovata a riflettere più di tanto su questo. Poi ho vissuto in un paese dove il matrimonio gay esisteva, dove il diritto all'adozione gay c'era, e mi sono trovata a intervistare i figli di coloro che erano stati cresciuti, ma questo tanti anni fa, da genitori gay o lesbiche. E nell'appurare, non avevo nessun pregiudizio prima di iniziare quel documentario, né a favore né contro, e quello che ho appurato, riscontrato nei racconti, mi ha fatto pensare che il rispetto ai diritti umani sia fondamentale, perché appunto non c'è nessuna garanzia nemmeno che gli eterosessuali siano degli ottimi genitori. Cioè l'orientamento sessuale non può incidere, perché purtroppo non c'è, sarebbe bello ci fosse questa garanzia sull'abilità o meno di crescere un bambino, una bambina, o altre questioni di questo tipo, per cui le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, sulla religione, sulla pelle, sulla razza sono particolarmente odiose. Ma di questo discuteremo tra pochissimo. Ora linea alla regia per qualche minuto. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ci spostiamo a Roma subito, ci scusiamo naturalmente con tutti quelli che attendono in linea, sono tantissimi, poi mandateci un'email, mandateci un sms, noi leggiamo tutto quello che ci inviate se non riuscite a entrare in trasmissione. Però diamo la parola velocemente a tutti quelli che riusciamo. Lucrezia, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dunque, io non mi stupisco che ci sia indifferenza su quello che è successo l'altro giorno e su quello che succede quasi ogni giorno, nel senso che poco più di un mese fa è stata organizzata a Roma, Piazza San Giovanni, una manifestazione mascherata con la difesa dei diritti delle famiglie eterosessuali. In realtà era una vera e propria protesta nei confronti dei diritti degli omosessuali. Quindi il fatto che un ragazzo viene pestato e nessuno reagisce, non c'è l'indignazione che ci può essere nei confronti di un cane maltrattato, e lo dico da animalista, a me non mi stupisce più. Cioè, la soluzione quale potrebbe essere? La scuola sta cercando di adottare dei progetti europei di informazione contro il bullismo in tutte le sue forme, omofobo, il bullismo contro comunque il diverso, già dalle scuole elementari, dalle scuole primarie. E questo viene osteggiato dai cattolici integralisti, che vedono come l'informazione ai bambini, agli adolescenti, ai ragazzi, come un cedere dei diritti a persone che poi abbiano orientamenti sessuali diversi dai nostri. A me non me ne frega niente, cioè se si va a letto con un uomo o con una donna, a me non me ne frega niente. Quindi questi cristiani integralisti combattono contro l'informazione. I nostri bambini, se non vengono informati da piccoli su che cos'è il bullismo, su come contrastarlo, come combatterlo e come soprattutto denunciarlo, diventeranno dei guidatori di autobus che nel momento in cui partecipano attivamente, cioè assistono a un pestaggio di un ragazzo, non alzano neanche il telefono per chiamare carabinieri o polizia. Grazie Lucrezia, molto chiara la sua denuncia, anche se chiedo, sono solo i, come ha detto lei, cristiani integralisti coloro che osteggiano per esempio il percorso legislativo? Parliamo di questo percorso di un DDL omofobia, la prima firma è quella di Ivan Scalfarotto. Ebbene, questo DDL è al palo in Senato da quasi 2 anni, è stato criticato dagli ambienti cattolici più ortodossi, ma soltanto da quelli, perché anche dopo la famosa frase di Papa Francesco, chi sono io per giudicare un gay, sembra che a volte il Vaticano sia usato come paravento, e il fatto che il Vaticano sia in Italia, per non intraprendere percorsi di tutela delle discriminazioni che altrove esistono e sono decisamente codificati. Lo chiediamo a un avvocato, Antonio Rotelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a lei. Presidente di Rete Lanford Avvocatura per Diritti LGBT. E dunque, chi è che contrasta questa legge anti-omofobia? Perché ferma il palo da 2 anni? Cosa è successo? Brevemente, non entriamo poi in tutti i tecnicismi. Io credo che ci siano almeno 2 ragioni. Sì. La prima è contrasto all'approvazione di questa legge, che è venuta da alcuni settori della società assolutamente minoritari ma rumorosi, e che hanno trovato appoggi e sponde all'interno delle istituzioni. E la seconda questione è che il testo, che nasceva come estensione della legge Mancino-Reale, che ricordiamo protegge le persone dall'istigazione all'odio, alla violenza, quando questa è motivata unicamente da motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, eccetera. E questo testo, dicevo, è stato modificato nel corso del suo esame, e alla Camera è stato approvato con l'aggiunta di un emendamento che, se non modificato, cioè quindi se approvato così in via definitiva, renderebbe vana l'applicazione della legge. Per cui c'è, ma è stato modificato dalle frange cattoliche integraliste, come diceva l'ascoltatrice? L'emendamento, in realtà erano 2 emendamenti, uno era di Aria PD e l'altro di una di Scelta Civica, per cui comunque viene fuori dall'area cattolica, però è stato fatto proprio dalla maggioranza, ed è un serio problema l'applicazione di tutta la legge, poi non soltanto per punire l'istigazione alla violenza o alla discriminazione nei confronti delle persone omosessuali o transessuali, ma anche quella nei confronti delle minoranze razziali, etniche o religiose. Quindi ci sono problemi anche in quella direzione. Voglio solo ricordare brevemente qual è la situazione in Europa. Scattiamo questa foto così, in fretta. Oggi sono 22 in Europa gli stati che prevedono, attraverso leggi o norme, il reato di discriminazione basato sull'orientamento sessuale. E ci sono paesi che puniscono esplicitamente l'omofobia, e sto parlando di Islanda, Norvegia, Svezia, Danimarca, Francia e Paesi Bassi, e altri, tra cui Finlandia, Germania, Spagna e Regno Unito, che parlano invece di hate crime, cioè l'omofobia rientra nella cornice di quei reati di odio, cioè quei reati che si basano su discriminazione religiosa o razziale. Proviamo a spiegare se c'è una differenza tra un'aggressione e basta, come ci segnala un ascoltatore, che già di per sé è gravissima, o un'aggressione che abbia come sfondo l'omofobia. E per farlo disturbiamo una filosofa, Chiara Lalli, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, una giornalista italiana che scrive su diverse testate e su Internazionale. Secondo lei qual è la differenza? Se c'è, non lo so, chiedo. Ma chiaramente questo è un discorso anche molto ampio e complesso e generico, perché le differenze noi le facciamo anche sulle gravità delle motivazioni, delle intenzioni. Questo succede su tanti altri reati, voglio dire, e chiaramente un'aggressione o una forma di violenza giustificabile, anzi forse potremmo dire non giustificabile, perché le ragioni sono talmente sciocche, come il caso da cui siamo partiti, anche se naturalmente è un caso di cui non conosciamo ancora tutti i dettagli, quindi è anche difficile parlare in modo esaustivo del caso specifico, ma senz'altro un'aggressione motivata per odio religioso, per odio verso un orientamento sessuale o per odio per un certo colore di pelle può essere giudicata, credo e mi auguro da tutti, una motivazione così sciocca, così ingiustificabile, può diventare un aggravante. E può diventare un aggravante fino a questo punto solo morale, nel senso che dal punto di vista della legislazione. Un discorso, diciamo, di quello che potrebbe o dovrebbe essere. Poi avete già detto che c'è una palude sul fronte legislativo, ma a me veniva ad aggiungere mentre vi ascoltavo che lo scenario è ancora più drammatico in termini di immobilità, sia sul fronte dei diritti che sono stati già accennati, penso al matrimonio, penso all'adozione, penso alla genitorialità, cioè un problema enorme in cui noi ci troviamo quasi intrappolati in questo paese, in questo sistema giuridico, e che è un po' paradossale, se non schizofrenico, parlare di omofobia e di reato di omofobia quando il sistema giuridico italiano è profondamente omofobo, nel senso che mantiene una discriminazione profonda che è quella appunto che è viva e vegeta e in ottima salute purtroppo sul fronte diritto di famiglia, diritto all'uguaglianza, perché il problema è che lei si occupa, lo diciamo, visto che è filosofa e tra l'altro l'ha rivelato, anche molto infastidita da questo fatto che in Italia poi a parlare di diritti umani debbano essere sempre e soltanto persone che sono colpite in prima persona da questa lesione. Invece lei, da difensore dei diritti umani, si occupa di omofobia inteso come diritto all'uguaglianza. Sì, che mi sembra così semplice da capire che a volte si fa fatica anche un po' a comprendere la ragione di tutte queste discussioni. Naturalmente poi la ragione è invece ben comprensibile ed è stato anche già accennato, anche Lucrezia mi sembra si chiamasse che è intervenuta, ha fatto cenno a quella manifestazione di giugno, il Family Day, che naturalmente nessuno vuole impedire alla gente di manifestare, però sarebbe interessante e utile capire bene le ragioni di una protesta, anche dire per esempio che si manifesta in difesa della famiglia cosiddetta naturale o tradizionale, che poi non ha alcun senso, ma adesso andremo fuori tema, ma sì. Nessuno, allargando i diritti, nessuno vuole minacciare la famiglia costituita da un uomo o da una donna, a parte che già le famiglie sono molto più eterogenee di un unico modello. E si minacciano da sé, ci sembra di capire poi dalle statistiche. Nel senso, non ci capisco. Tanti modi di essere famiglia e non si capisce perché bisognerebbe garantire i diritti soltanto a un unico modello. Se vietare il matrimonio ad altri rendesse veramente più solida la nostra unità familiare, chissà, ci sarebbe, forse ci sarebbero anche più seguaci di questo tipo di soluzione. Beh, lo dimostrano le statistiche, cioè anche il nascere con un genitore maschio e un genitore femmina all'inizio della vita non garantisce che qualche anno dopo la coppia parentale sia totalmente diversa, anche se eterosessuale, ma c'è stata una separazione, c'è stato un divorzio, ci sono state situazioni di questo tipo, per cui non c'è nessuna garanzia che esista la famiglia, una volta la si chiamava mulino bianco, ed è suona strano nel 2015 trovarsi ancora a parlare di questo. Vogliamo ricordare la morte di Shira, la sedicenne ferita nel Gay Pride, è una ragazza israeliana di 16 anni che a Gerusalemme stava dimostrando la sua solidarietà, non perché lei lo sia, ma la sua solidarietà perché riteneva importante, come tanti giovani, lottare per i diritti di tutti, e dunque è stata coltellata da un ebreo ortodosso che ha aggredito lei e altre cinque persone, e lei non ce l'ha fatta. I genitori che hanno donato gli organi hanno dichiarato la nostra magica Shira Shakira è stata uccisa perché era una sedicenne felice, piena di vita e di amore, che voleva esprimere il suo sostegno al diritto dei suoi amici di vivere come credono. E la famiglia ha espresso la speranza per un mondo con meno odio. Questa è la speranza a cui ci uniamo. Ora ci fermiamo per un istante, controlliamo la situazione del traffico e poi ritorniamo in diretta. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. 9.47, no, le ricerche serie dicono che nei paesi dove le persone sono state cresciute da genitori gay hanno maggiori problemi psichici. Questo è un sms che ci è arrivato, citi fonti serie. Beh, potrebbe cominciare lei a darmi l'esempio e a citare queste fonti serie, magari, visto che e magari cominciare anche con una firma, anche basta il nome, ma diteci se quando scrivete avete almeno la possibilità di mettere il nome, se non volete mettere il cognome. Problemi psichici se i genitori sono gay, questa è la segnalazione del nostro ascoltatore, ma come abbiamo detto è un altro tema, l'abbiamo già anche affrontato tra l'altro in passato, ci porterebbe fuori tema. Ora stiamo parlando del diritto a percorrere le strade, a prendere gli autobus in sicurezza in Italia, di un diritto umano semplicemente non essere aggrediti perché in questo caso tra l'altro per un grossolano scambio, ma è anche irrilevante perché la persona aggredita e ridotta in fin di vita a Genova tra l'altro non era nemmeno omosessuale, visto che è la fidanzata che ci sta raccontando tutto quello che è accaduto, ma è irrilevante agli occhi di coloro che lo pestavano, lo era, e questo per loro bastava, era una giustificazione. E questa legge che in Italia è ancora ferma al palo c'è, l'abbiamo detto, in quasi tutti i paesi europei. Malta, grazie alla legislazione approvata a marzo che riconosce a ogni individuo il diritto alla libera autodeterminazione della propria identità di genere, ha superato, ha scavalcato anche i paesi del nord Europa con questo tipo di legge. E poi in testa alla classifica ci sono naturalmente Gran Bretagna, Belgio, e l'Italia è quello dell'Europa occidentale tra tutte le nazioni che tutela peggio e maggiori sono le discriminazioni. Nella classifica generale abbiamo perso due posizioni, siamo scivolati dal 34esimo posto su 49 al 34esimo posto su 49, siamo dopo paesi come la Georgia, la Slovenia e la Romania. E quale potrebbe essere, secondo lei, avvocato, al di là del DDL che è fermo, abbiamo visto ancora al Senato da due anni, una strada che tuteli questo tipo, che per tutelare dal punto di vista delle norme e della legge questo tipo di discriminazione? E perché è così importante che sia scritto nel sistema giuridico di un paese? Ma lei ha già citato qual è la realtà giuridica negli altri paesi dell'Unione Europea, dove la maggior parte hanno delle norme penali che puniscono l'istigazione alla discriminazione o alla violenza nei confronti delle persone omosessuali. Questo è indice del fatto che in tutti i paesi di tradizione giuridica comune alla nostra si avverte come particolarmente grave il reato commesso con la motivazione omofobica. Ma perché, ci chiedono gli ascoltatori, non è già grave di per sé, ci dice qualcuno, l'aggressione? Allora, ci sono dei reati comuni, e oggi esiste anche un'aggravante chiamata aggravante per i futili motivi, che potrebbe essere applicata anche quando un'aggressione è commessa per l'orientamento sessuale della persona. Ma ciò non è sufficiente proprio per la ragione che dicevo prima. Ci sono dei reati che sono particolarmente odiosi, per esempio quelli commessi per via della religione alla quale appartiene una persona o per l'origine etnica. E questi reati, che sono appunto reati di odio, sono avvertiti come molto pericolosi, cioè il reato va al di là dell'azione che viene commessa e c'è necessità da parte dell'ordinamento di reagire in maniera forte, perché normalmente quando un reato è aggravato per i futili motivi, per esempio, quella aggravante può essere compensata con le attenuanti. Invece la previsione di un reato specifico garantisce che l'ordinamento possa punire sempre chi si è macchiato di quel reato. Questo dal punto di vista tecnico, però è importante anche sottolineare il tema del prendere una posizione, cioè a casa tua, all'osteria o ovunque in privato puoi esprimerti in un certo modo. Quando lo Stato adotta una certa norma è come se la nazione tutta prendesse una posizione. C'è Emanuele che ha una posizione diversa, critica rispetto a quanto è stato detto finora. Buongiorno, benvenuto in trasmissione. Buongiorno, Emanuele. Chiama? Da che città? Roma. Dica Emanuele. Io al Family Day c'ero. Sì. Il discorso non c'è niente contro gli omosessuali come persone. Uno può semplicemente la pensa diversamente. Omosessualità, secondo e l'educazione, secondo me, secondo i cattolici. Cattolici punto, perché poi ci sono i cattolici e i cattolici annacquati, non quelli integralisti, quelli non esistono, sono quelli annacquati. Emanuele, ma posso farle una domanda? Posso farle una domanda, certo, perché rimane certo. Salvo ovviamente il suo diritto al disaccordo su qualunque pensiero. Per fortuna. Ma le chiedo un'altra cosa. Lei crede, appunto, era il Family Day, nella difesa della famiglia, diciamo tra virgolette tradizionale, uomo, donna e bambini. In che modo, se due persone dello stesso sesso arrivassero all'altare piuttosto che a un rito civile a sposarsi, in che modo, mi spieghi perché non capisco questa connessione, minacciano queste altre famiglie? Cioè cos'è che viene meno se due donne si sposano, due uomini si sposano? Lei prima ha fatto l'esempio per cui diceva che i gay non possono, l'omosessualità, vabbè, non possono crescere un figlio. Il problema è che così si fa un po' di confusione. Dal punto di vista della legge? No, dal punto di vista educativo c'era un messaggio. Ah, un messaggio, un messaggio di un ascoltatore. Sì. Però scendiamo un po' le cose. Sì. Se uno ha un genitore che bestemmia dalla mattina alla sera e un altro ha un genitore che parla perfetto italiano, la sua capacità di parlare, cioè di articolare le parole, non sarà inficiata da questa, come dire, capacità di espressione, ok? Modalità espressiva. Saranno saranno modificati se avrai contenuti, ma la capacità di parlare no. Allora, la educazione all'affettività prescinde dall'essere buon genitore o cattivo genitore, perché si muove su paradigmi che sono introiettati e che vanno introiettati dal bambino e dalla bambina, vedendo un padre e una madre, che è una famiglia non tradizionale ma naturale, che è diverso. Che non ho capito bene il ragionamento, devo dire la verità. Io le ho chiesto in che modo, se per esempio lei ha detto c'è libertà di pensiero, c'è libertà per non tutti, lei danneggio. È sposato, allora, o si sposerà, no? In che modo, se il vicino di casa ha 5, scusi, quindi sono indietro con i programmi, non la conosco. E se il suo vicino di casa si sposa con un uomo o la sua vicina si sposa con una donna, cosa toglie a lei, ai suoi 5 figli, la libertà degli altri? Questo io non riesco a capire, capisce in cos'era la domanda, Emanuele? Comunque, grazie per aver espresso giustamente un'opinione anche diversa. Chiara Lalli, e quindi ha sentito anche lei. E in che modo, non ho capito bene la questione della bestemmia e del linguaggio, però vabbè, stiamo parlando della mentalità, della cultura, per cui concedere, diciamo così, un diritto potrebbe minare il diritto, il diritto di chi invece ha fatto scelte diverse. Cioè, allora, forse questo è il timore in Italia. No, dunque, io credo che si tenda anche intenzionalmente a confondere un po' i piani, perché così non si capisce più nulla e diventa tutto terribilmente faticoso. Quindi allora, facciamo chiarezza in un minuto, perché siamo alla fine. In un minuto. Allora, innanzitutto la famiglia naturale è una specie di contraddizione, di ossimoro, e essere naturale non è garanzia di bontà, anche perché spesso la natura non è per niente moralmente buona e le malattie sono naturali, per fare un esempio veloce. Quindi i casi naturale di violenza in famiglia sono, cioè, tutti i giorni, purtroppo. Esattamente. Quindi famiglia naturale è veramente una contraddizione e non può essere usato come un argomento per dire ci teniamo mamma, papà, uomo, donna, tutti gli altri modelli di famiglia devono essere espulsi. La questione però secondo me può essere affrontata anche su altri due punti velocemente. Il primo è pensare non ce l'abbiamo, non abbiamo la possibilità di esprimere due punti. Mi dispiace, Chiara Lalli, senti, ci stanno chiamando le redini della regia. Ringraziamo Silvi Boccaletti, Barbara Bianchi, Massimiliano Lollis in redazione, Peter Bescapè in regia. Prima di salutarci parliamo di disabilità, che è negli occhi di chi la vede. Questo è il messaggio di Samuel Marchese alla volta di Expo di Milano con la sua handbike. È un giovanissimo, ha 15 anni ed è disabile, sta percorrendo 800 km effettive. Noi lo seguiamo, ascoltiamolo. Il messaggio che vogliamo mandare sono tanti, ed è uno che vogliamo far capire a tutti che tutti possiamo farcela, anche se con maggiori difficoltà. Due, che la vera forza non è quella dei muscoli, ma è quella della volontà e della caparbietà. E tre, che tutti possiamo farcela, nonostante tutto, e che la disabilità non esiste, sta solo negli occhi di chi guarda. Era già da tempo che volevo mandare in qualche modo questo messaggio, infatti facevo già da prima sport e volevo anche cercare in qualche modo di coinvolgere i ragazzi ad entrare nello sport, perché nella mia città, come in molte altre, ragazzi con difficoltà non se ne vedono tanti. Io spero che attraverso questa impresa riescano a capire questo messaggio, che non devono stare chiusi in casa, perché la vita è una e se la devono godere lo stesso anche se con maggiori difficoltà. Io so che la maggior parte delle volte non sono i ragazzi che vogliono stare chiusi in casa, ma sono gli stessi genitori che dicono no, tu hai i tuoi limiti, devi stare chiusi in casa. Sono i genitori che tengono chiusi in casa e non sono i ragazzi a voler stare chiusi in casa.